Cari amiche e cari amici, bentrovati, Radio Alma, Bruxellando, Mari D ai microfoni. Sì, sto litigando col microfono, forse si sentirà anche già dalla voce. No, no, si sente bene, si sente benissimo. Oh, ti ringrazio. Saluto Dani MRG. Buonasera a tutti. Il nostro Giorgetto che è qui con noi già dal primo secondo, come sono felice. Ah, eccoci qua, ma ormai i ritardi sono pochissimi. Hai ragione, è vero. Salutiamo Fiordaliso che ahimè è ammalata, quindi le auguriamo veramente una velocissima e pronta guarigione. Quindi questa sera non ci sarà il Librangolo, ma non temete perché abbiamo tre ospiti, tutti e tre diversi tra di loro, per formazione, per carriera, per passione. Perché il primo è stato ambasciatore d'Italia in Turchia e ci parlerà di questo tema attualissimo, che è l'entrata della Turchia in Europa. Eppure lui ha scritto supposta entrata, insomma, lì poi vediamo l'ambasciatore che cosa ci racconta, anche perché il suo titolo è veramente il titolo del libro che lui ha scritto, già insomma la dice lunga: La Turchia bussa alla porta, viaggio nel paese sospeso tra Europa ed Asia. Poi veniamo ad un ospite di cui già accennavamo la settimana scorsa in chiusura, che abbiamo avuto il piacere io e George di intervistare qualche giorno fa, Lucio Dalla, amatissimo insomma cantautore della musica italiana. Insomma, lui è stato uno dei protagonisti degli ultimi decenni di musica in Italia, e vedrete insomma ci sono stati momenti molto simpatici con lui. È un'intervista veramente gradevolissima, e non perché l'abbiamo fatta io e Giorgio, ci mancherebbe, è stato veramente Lucio ad essere protagonista. Infine poi invece, poiché non abbiamo il Librangolo, abbiamo un autore campano, quindi come sapete insomma sono veramente felice, questo veramente per caso, perché mi è stato proposto dalla casa editrice Leone, quindi saluto tutti quanti vivamente. Rosario Cuomo con La resa dei conti. Non è un film, sebbene il titolo sia lo stesso, ma un giallo che veramente vi suggerisco di leggere, perché è un genere poliziesco alla Montalbano, alla Camilleri, con accento napoletano, quindi insomma veramente da leggere, bello, da leggere, perché chissà, magari faranno anche un film o una serie, che chi lo sa. Chi lo sa, il titolo già porta bene, La resa dei conti era un film per l'appunto del 1967, quindi ascolteremo poi dalla viva voce di Rosario quella che è la sua opinione. Io George, questa sera, anche se non abbiamo il Librangolo, siamo pienissimi, però penso che ci sia un evento di cui dobbiamo già occuparci, che è la Fiera del Libro. La bestia che ritorna fortunatamente per noi e per tutti voi che amate i libri. Sì, la Fiera del Libro ritorna quest'anno come tutti gli anni, dal 1 al 5 marzo, quindi da giovedì fino a lunedì, a Tour et Taxi. È inutile dirlo, insomma già lo conoscete, un appuntamento ricorrente, e quindi in questi 5 giorni ci sarà veramente una piattaforma del pensiero, un ambiente un po' così festivo. Il tema di quest'anno è Sex, Books and Rock and Roll, sesso, libro e rock and roll. Che vediamo, che cavolo di polo. Ovviamente è un adattamento alla famosa massima di Jan Duris: sesso, droga e rock and roll. Insomma, in quel momento in cui l'Occidente mostra i segni di un ripiegamento verso se stesso e di egoismo, e lo vediamo anche in Europa direttamente quello che succede, la crisi, insomma le persone che si spaventano, giustamente, io non posso che comprendere il loro spavento. Noi, la Fiera del Libro richiama lo spirito del rock e al senso della contestazione, quindi sì, insomma, dalla crisi vengono sempre fuori nuove idee, insomma, e anche quest'anno noi siamo convinti che ci sarà una fiera interessante, ma ancora di più perché in questa fiera, la fiera di quest'anno, avrà un invitato speciale. L'invitato d'onore di quest'anno è, udite, l'Italia. Eh sì, e quindi ecco l'Italia che porterà un suo sguardo, il suo modo, il suo pensiero a tutti quanti, ed è una, quella di italiano, una delle più importanti, più vecchie comunità di migranti in Belgio, insomma è inutile ricordarlo, è una delle più grosse, e quindi giustamente il Belgio, secondo me, ha voluto anche inaugurare questa fiera con questo invitato speciale. E quindi lo vedrete, in particolare il padiglione italiano, non appena entrerete alla Fiera del Libro. Allora, non mi resta che ricordarvi dall'1 al 5 marzo, quindi da giovedì a lunedì, prezzo di 8 euro, assolutamente affrontabile, un sacco di cose interessanti da vedere. Fra l'altro ci sono anche, c'è lo spazio informatico per chi è innamorato di pad e iPad e quant'altro. E quindi insomma andate numerosi, perché anche Bruxellando avrà il suo ingresso, avrà una sua antenna alla Fiera del Libro. Insomma, vi daremo conto di quello che succede alla Fiera del Libro nelle prossime puntate, nelle prossime edizioni di Bruxellando. Ebbene, come dicevamo in apertura, è il nostro graditissimo ospite questa sera Carlo Marsili, autore della Turchia Bussa alla Porta, viaggio nel paese sospeso tra Europa ed Asia. Ambasciatore, buonasera, benvenuto a Bruxellando. Grazie. Benvenuto. Allora, lei è stato più volte in Turchia, è stato consigliere politico in Turchia tra il 79 e l'81, poi invece è stato proprio per più tempo in Turchia, ambasciatore d'Italia in Turchia dal 2 febbraio 2004 all'11 giugno 2010, quindi un periodo abbastanza lungo ed importante anche per, diciamo, gli affari europei in Turchia, e ha anche avuto insomma il premio come diplomatico straniero dell'anno in Turchia nel 2006, conferitoli proprio dal primo ministro Erdogan. Ambasciatore, quindi alla base di queste brevissime notizie sulla sua carriera di diplomatico, è la Turchia che bussa alla porta dell'Europa o piuttosto il contrario? Diciamo che nei primi anni del mio mandato, cioè grosso modo tra il 2004 e il 2008, potevamo dire che era la Turchia che bussava alla porta dell'Europa, perché era un paese che per varie ragioni, politiche innanzitutto, ma anche economiche, aveva bisogno dell'integrazione nell'Unione Europea. E questa era poi l'opinione non solo del governo, ma anche della grande maggioranza della popolazione. Beh, adesso con la crisi in Europa e invece con lo sviluppo economico fortissimo che registra la Turchia da parecchi anni, con un aumento del prodotto interno lordo che viaggia intorno all'8% l'anno, direi che è un po' più l'Europa che bussa la porta della Turchia, o perlomeno quella parte dell'Europa che è consapevole che senza la Turchia l'Europa rischia di non poter essere un grande protagonista sulla scena internazionale. Eppure tutto sommato l'immagine che invece ci viene, diciamo, propinata qui al di là dei confini è che ci sono ancora tanti problemi sociali ed economici, quindi in realtà quali sono questi problemi che la Turchia deve ancora risolvere? No, la Turchia di problemi economici in realtà non ne deve risolvere nessuno, perché praticamente dal 2002-2003 ha una crescita del 7-8% l'anno. Per cui è un paese che già in questo momento è a livelli europei dal punto di vista economico. Qui i problemi che la Turchia deve risolvere sono semmai una serie di problemi politici che riguardano l'assolvimento, l'adempimento in termini politici di quelli che sono le richieste dell'Unione Europea. Intendo dire, soprattutto si tratta di aumentare le libertà individuali, si tratta di modificare la Costituzione in senso più europeo, ma tutto questo è un lavoro che il Parlamento turco sta già facendo, ed è un lavoro che credo che porterà a conclusione nel giro di un anno o due. E il problema della Turchia a questo punto non è più un problema interno al Paese, ma è un problema di accettazione di un impegno preso, peraltro, all'unanimità da parte di tutti i paesi dell'Unione Europea quando è stata accettata la candidatura ufficiale della Turchia. Purtroppo alcuni paesi ci hanno ripensato, in particolare la Francia di Sarkozy e anche la Germania. E come lei giustamente osserva, ci sono paesi che non vedono di buon occhio l'entrata della Turchia in Europa. C'è un denominatore comune per questi paesi su adesione contrari? Il denominatore comune c'è, perché in fondo l'Unione Europea in questo momento è molto sbilanciata, come tutti noi possiamo osservare, all'interno dell'asse franco-tedesco, quindi è un'Unione Europea soprattutto centrata nei paesi del centro Europa e del nord Europa. Per esempio l'Italia, essendo un paese mediterraneo, si trova spostata da questo baricentro, si trova in una posizione che ancora non è centrale all'Unione Europea. L'ingresso della Turchia nell'Unione Europea potenzierebbe la parte mediterranea dell'Europa e quindi valorizzerebbe di gran lunga sia l'Italia che tutto il mondo mediterraneo rispetto al baricentro franco-tedesco. Questa è la ragione per cui praticamente tutta la classe politica italiana, con pochissime eccezioni, è a favore dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, ma questa è anche una delle ragioni per cui la Germania e la Francia la ostacolano, cioè il timore di perdere all'interno dell'Unione Europea quella posizione privilegiata e quindi di potere che stanno mantenendo tuttora da parecchi anni. Lei giustamente diceva che la maggioranza della classe politica italiana è a favore dell'ingresso della Turchia. Ecco, come siamo messi? Qual è il punto della situazione per quanto riguarda l'aspetto religioso, che invece vi sembrava uno dei punti che almeno così veniva più pubblicizzato? Ma guardi, innanzitutto bisogna considerare il fatto che nel momento in cui la Turchia è stata accettata come candidato ufficiale all'Unione Europea, il problema religioso non è stato posto, e giustamente non è stato posto, perché l'Unione Europea è una organizzazione di stati che non fa della questione religiosa un punto d'ingresso fondamentale d'ingresso all'interno dell'Unione Europea. Intendo dire, in Europa uno può essere cristiano, ma può anche essere di un'altra religione, oppure può essere di nessuna religione. Tanto è vero che la Costituzione Europea non fa alcun cenno nemmeno alle radici cristiane giudaiche, non è stato accettato. Quindi il fatto che entri un paese considerato musulmano non implica una violazione di alcun principio fondamentale dell'Unione Europea. Aggiungiamo che la Turchia è un paese innanzitutto laico, perché la Costituzione turca non menziona mai l'Islam. Quindi il fatto che sia un paese a prevalente religione musulmana non toglie che sia fondamentalmente laico, dove tutti i principi laici sono rigidamente accettati, e direi che è un paese più laico di molti altri paesi europei. In qualche modo la Costituzione turca riecheggia quella francese. Secondo lei quindi quale potrebbe essere l'apporto che la Turchia potrebbe portare all'Europa? Beh, insomma, far entrare nell'Unione Europea un paese, un grande paese, perché è un paese di oltre 72 milioni di abitanti, che ha una crescita economica molto consistente, dove già ci sono migliaia e migliaia di aziende europee che vi lavorano, solo l'Italia ne ha più di 900, un paese che ha il secondo esercito della NATO, un paese che dal punto di vista politico ha degli enormi interessi e anche degli enormi contatti nel mondo medio orientale, nel Nord Africa, eccetera. Beh, insomma, da un punto di vista politico, da un punto di vista militare, da un punto di vista economico, ma anche in qualche modo da un punto di vista sociale, perché essendo un paese a prevalente religione musulmana, come dicevamo, però laico, beh, in qualche modo può fungere da guida e da motivo ispiratore delle grandi comunità musulmane che sono in Europa. Quindi è un apporto fortemente positivo che potrebbe veramente far fare, io credo, un salto di qualità all'Unione Europea e renderla uno dei grandi protagonisti della scena internazionale, cosa che l'Unione Europea ancora stenta a dire. L'Europa invece cosa potrebbe apportare alla Turchia? L'Europa, la Turchia apporta il privilegio di finalmente far entrare nella sua famiglia un paese che anche storicamente è stato un paese europeo, non c'è niente da fare, perché l'impero ottomano, noi ce lo ricordiamo dai tempi della scuola, veniva chiamato il malato d'Europa, il grande malato d'Europa, beh, insomma è sempre stato un paese europeo. La Turchia, le squadre turche di calcio turche giocano nelle divisioni di calcio europee, insomma i turchi sono europei esattamente come lo sono gli altri paesi, Infatti la Turchia è nella NATO fin dai tempi della fondazione della NATO. La NATO è un'alleanza tra America e Europa, non è che ci sono paesi asiatici dentro. Quindi insomma la Turchia fa parte di tutti gli organismi europei, compresi i tribunali europei che si trovano a Strasburgo, eccetera. L'unico punto da cui viene escluso è l'Unione Europea. Tutto questo è una profonda ingiustizia ed è sentito profondamente ingiusto da parte dell'opinione pubblica turca. Poi in definitiva quindi si tratta di riconoscere alla Turchia quello che è, cioè un paese dell'Unione Europea che deve avere la possibilità di svolgere le sue funzioni all'interno di questa grande famiglia europea che poi è stata creata appunto con l'obiettivo di unificare i paesi europei. Io volevo fare un'altra domanda, perché mi sembra, almeno appunto le notizie che arrivano qui per la Turchia, per quanto riguarda per esempio altri problemi come quello dell'Armenia, cercare di capire come funziona, in che rapporto si mette la Turchia con l'Armenia, perché sono assolutamente d'accordo che dal punto di vista strettamente economico la Turchia, e anche dal punto di vista geopolitico, la Turchia sarebbe per i paesi del Mediterraneo. Però che cosa sta facendo la Turchia, o come si porrà con queste domande che vengono fatte? D'accordo, la religione è uno stato laico, a livello di principio è laico, però non si può non riconoscere che comunque un problema che va assunto, un problema che deve essere comunque discusso e magari accettato. Io sono assolutamente a favore, ma va accettato. Però come si pone poi con l'Armenia e con i paesi all'intorno? Beh, la questione dei rapporti con l'Armenia è questa. La Turchia, quando c'è stata la disgregazione dell'Unione Sovietica e quindi l'Armenia è diventata un paese indipendente, la Turchia ha riconosciuto l'Armenia e sono state stabilite relazioni diplomatiche negli anni 90 tra Turchia ed Armenia. Quando poi c'è stato il problema del Nagorno-Karabakh, cui l'Armenia ha invaso una parte del territorio dell'Azerbaigian, essendo gli azeri di origine turca, tutto questo ha creato un problema molto serio tra Turchia e Armenia e così le relazioni diplomatiche si sono interrotte. Tuttora non esistono relazioni diplomatiche tra Turchia e Armenia, anche se il presidente armeno un paio di anni fa è venuto in visita in Turchia e il presidente turco è stato in visita in Armenia proprio per rilanciare i rapporti tra i due paesi. Io credo che un giorno i due paesi poi si riconosceranno. Resta il problema del riconoscimento del cosiddetto genocidio armeno, che però i turchi non vogliono fare e gli armeni pongono come condizione sostanzialmente essenziale per il riconoscimento reciproco. Ora, sulla questione del genocidio armeno qui bisogna stare attenti, perché ci sono molti storici che dicono che c'è stato, ci sono altri storici come Bernalius e altri che dicono che sono stati massacri ma non è stato genocidio. Quindi la cosa che viene suggerita da parte turca è di istituire una commissione di storici e di accademici che sotto l'egida delle Nazioni Unite facciano il punto, consultando gli archivi dei due paesi, facciano il punto sulla questione. Però questo l'Armenia non lo vuole accettare. Questa è anche la posizione del governo italiano, insomma, noi non abbiamo riconosciuto come Italia il genocidio armeno e riteniamo che sia giusto che venga invece affrontata la questione da parte degli storici e degli accademici e non da parte del Parlamento. Tra l'altro, come abbiamo visto, il Parlamento francese aveva approvato una legge che puniva il disconoscimento del genocidio armeno e proprio stasera la Corte Costituzionale francese ha dichiarato illegittima la norma. E veniamo allora invece al punto delle minoranze. Io sono stato a Cipro e di notte vedevo la bandiera turca su una montagna. Ecco, come si potrà risolvere il problema di Cipro? Che è un problema spinoso, perché Cipro è già in Europa. Quindi, certo, quali sono il problema di Cipro è un problema spinoso, ma il problema è stato che quando nel 2004 l'Unione Europea ha fatto l'allargamento e ha accettato di far entrare nell'Unione Europea Cipro, con il problema non risolto della minoranza turco-cipriota, ha commesso un errore che poi è stato riconosciuto è stato riconosciuto dai politici, però ormai era stato fatto, perché purtroppo l'ingresso di Cipro nell'Unione Europea ha provocato una situazione molto strana, e cioè che c'è un governo greco-cipriota che viene riconosciuto come governo legittimo di tutta l'isola, però c'è anche una minoranza turco-cipriota che in qualche modo quel governo non lo riconosce, tant'è vero che esiste anche uno Stato turco-cipriota, Stato turco-cipriota che è riconosciuto soltanto dalla Turchia per il momento, ma di fatto il paese è diviso in due. Ora sono in corso da anni, anzi da decenni, dei negoziati tra la comunità greco-cipriota e la comunità turco-cipriota in modo da cercare di raggiungere un'intesa per creare uno Stato federale. Questi negoziati sono giunti a un momento cruciale, io spero che arrivino a una conclusione positiva, però non bisogna dimenticare che quando il segretario generale dell'ONU, Annan, nel 2004 fece il cosiddetto piano Annan per risolvere la situazione, beh, quando ci fu il referendum i greco-ciprioti votarono contro, i turco-ciprioti votarono a favore. E questo ha rappresentato un ostacolo molto grande per la riunificazione dell'isola. Vediamo che cosa succederà. Se un giorno riusciranno a mettersi d'accordo, beh, ne saremo contenti tutti. Se invece le due parti non riusciranno a mettersi d'accordo, io credo che bisognerà prendere in seria considerazione il fatto che a quel punto esistono due comunità, ma esistono anche due stati diversi, e quindi, come è successo per la Cecoslovacchia, bisogna prendere atto di una divisione irreversibile. Ambasciatore, la radio e mail, il tempo è assolutamente tiranno. Una curiosità brevemente: qual è la verità sul velo islamico allora in Turchia? Sul velo islamico? Sì, questo famoso velo che qui insomma ci tramandano un po' come. Ah, guardi, la questione del velo è una questione sì, effettivamente molto dibattuta in Turchia, perché in Turchia, a differenza di quello che accade negli altri paesi europei, con l'unica eccezione della Francia, c'è un divieto di indossare il velo nelle università, nelle scuole superiori, nelle scuole inferiori, nei licei e negli impieghi pubblici, che significa che, essendo considerato un simbolo religioso, non può essere ostentato, e quindi c'è questo divieto del velo. Però c'è al governo in Turchia da vari anni un partito che ha radici religiose, insomma un po' come era la Democrazia Cristiana da noi, e c'è un partito che è appunto il partito del primo ministro Erdogan, che invece ha radici religiose, e la moglie del primo ministro, la moglie del Presidente della Repubblica, le mogli di gran parte dei ministri di governo turchi indossano il velo. La stranezza vuole che la figlia del primo ministro turco, come anche la figlia del Presidente della Repubblica Turca, non hanno potuto entrare in un'università turca perché hanno rifiutato di togliersi il velo e sono andati a studiare rispettivamente in Inghilterra e negli Stati Uniti. Allora, come si risolverà la questione del velo? Beh, dal punto di vista costituzionale in questo momento c'è un divieto del velo, però poi insomma le donne che portano il velo ce ne stanno anche in Turchia, naturalmente, anche se non possono appunto, se devono limitare la loro tenere il velo, andarsene per strada con il velo o tenerselo in casa, ma non negli uffici pubblici. Non lo so che cosa succederà. Pian piano, sa, quella del velo potrebbe finire per essere una battaglia persa da parte dei laici, però essendo la Turchia un paese fortemente laico anche dal punto di vista costituzionale, al momento la situazione è quella che lei ha scritto. Bene. Ambasciatore, noi veramente la ringraziamo, è stato veramente un piacere leggere anche del suo libro, quindi insomma qualora dovesse ancora continuare a scrivere ci faccia sapere, noi veramente saremmo onorati di risentirla ancora dai nostri microfoni. Grazie a lei, è stato un piacere per me, e grazie ai suoi ascoltatori. Grazie infinito. Grazie, a presto. Grazie ancora, salve. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Eccoci nuovamente qui, come accennato insomma

cantante che ho portato qua a Sanremo e anche autore, che si chiama Pier Davide Carone. Certo. Ritengo che siano le nuove leve, tra le migliori, i migliori delle nuove leve canore italiane. E quindi per queste nuove leve, no, della musica italiana, un messaggio da parte di Lucio Dalla per il futuro? Cioè, il messaggio che do a loro è quello che do a me in continuazione, cercare sempre di lavorare per il meglio, per dare sempre maggiore qualità alle proprie cose, cercando di essere se stessi, ma pensando anche che quello che facciamo va agli altri. Quindi non darei mai, non produrrei mai una sedia da farsi del qualcuno che si rompe una gamba, hai capito? Quindi cerco sempre di dare il meglio che nelle possibilità, ma è questa proprio la vocazione. Cercare di far star bene, di avvertire, di informare, di problematizzare quando è il caso di farlo, quelli che ascoltano e quelli che usano la canzone in modo buono. Lucio, noi siamo qui a Bruxelles, vorresti lasciare un messaggio per tutti i nostri amici, amiche all'ascolto? Guarda, io di solito quando devo fare un augurio a qualcuno gli dico la stessa cosa, gli dico buona vita. Ah, grazie. Che vuol dire tutto, e dico buona vita a voi che siete alla radio, ma anche e soprattutto, non soprattutto, ma anche allo stesso modo a quelli che ci ascoltano. Dovunque siete, qualsiasi cosa fate, buona vita. Lucio, noi veramente siamo stati felicissimi Bellissimo. Di questa intervista e di questo scambio, e speriamo magari di incontrarci a Bruxelles. Ci incontreremo sicuramente, venite perché il concerto è bello. Vi abbraccio e viva Bruxelles. Non mancheremo, a prestissimo e in bocca al lupo ancora per Sanremo. Grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao, grazie. Ed eccoci nuovamente qui, avete potuto ascoltare questa, questo simpatico scambio con Lucio. Lucio, ti ringraziamo ancora. Ti salutiamo e ovviamente verremo anche a vederti in concerto il 10 marzo, tra l'altro il mio compleanno, quindi insomma è un omaggio straordinario quello di essere anche insomma al tuo concerto. Per concludere questa serata che vi avevo già annunciato essere ricchissima, abbiamo invece Rosario Cuomo, il quale ha scritto un giallo molto molto bello, e veramente ve lo consiglio, La resa dei conti, perché è una storia che vale veramente la pena raccontare, tra l'altro ambientata in Campania, quindi in particolare diciamo a Napoli e dintorni, e quindi veramente per chi ama il genere poliziesco, per chi ha già letto Camilleri e per chi insomma vuole saperne di più, questo veramente è il libro giusto. Tra l'altro andiamo verso la festa della donna, io reputo che questo libro possa essere veramente gradito e piacevole anche per l'altro sesso, per il sesso femminile. L'autore è Rosario Cuomo, è nato a Napoli, dove tuttora vive e lavora come insegnante di arte e immagine in una scuola media, e ha in comune con i protagonisti del romanzo la passione per la buona tavola, specie se in buona compagnia, e insomma di questo effettivamente è veramente una bellissima passione. Sento Dani M già in regia, in contatto con Rosario, quindi magari qualche secondo e Rosario sarà in studio. Rosario, pronto? Salve, buonasera. Benvenuto a Bruxellando. Grazie a voi. Allora, noi veramente siamo felici di averti nostro ospite qui questa sera. Raccontaci un po' com'è nata la tua passione per la scrittura. Ma insomma, la passione per la scrittura, diciamo che quando ho cominciato a scrivere, questo ha avuto una lunga gestazione, questo libro, sono stati quasi 10 anni a scriverlo, nel senso che poi lo riprendevo in mano, poi lo lasciavo, eccetera, eccetera. Hanno cominciato a vedere che poi c'erano persone che mi ero fatto un mio comitato di lettura personale, che leggevano queste cose e poi e mi incoraggiavano a non mollare, ad andare avanti, allora poi ha cominciato a divertirmi proprio l'idea di costruire un oggetto utilizzando poi un mezzo, che è la lingua, e quindi con le parole, con le frasi. Perché un giallo? Perché sono un appassionato del genere, perché credo che sia una forma letteraria che possa stare degnamente insieme ad altre forme che normalmente si ritengono più, come dire, più importanti. Ritengo che sia, che possa tranquillamente stare al pari di altre forme, perché in effetti un giallo non fa altro che raccontare come poi si pongono le persone rispetto a un evento che nel caso specifico è un crimine. Il tuo caso però, e correggimi se sbaglio, mi è sembrato di capire che il tuo concetto di giallo è però un po' differente, mi è sembrato essere piuttosto un giallo dal volto umano, in cui i protagonisti sono dei non eroi. Sì, sicuramente questo, ma anche perché appunto io non amo molto il tipo di letteratura gialla in cui c'è stato un critico che ho letto su internet che criticava il mio libro, nel senso diceva non è un libro per chi ama forti emozioni, diciamo che, ripeto, il crimine credo sia il pretesto narrativo per raccontare per le persone, per costruire degli ambienti, per costruire dei personaggi, utilizzando un altro mezzo. Diciamo che il divertimento è stato quello di, è una cosa che più o meno so fare, quella di disegnare, e è divertito disegnare con le parole stavolta. Tra l'altro, per l'appunto, ci sono riuscito. No, secondo me ci sei riuscito anche molto bene. Ringrazio. Tra l'altro c'è un ulteriore aspetto, mi ricollego a quello che tu dicevi proprio poc'anzi, ed è il rapporto che lega Cesare e Renato. E, come nasce questa loro amicizia e quanto è importante ai fini dell'inchiesta? Sono persone che si completano, in effetti uno ha gli aspetti dell'altro, sono persone che si capiscono, sono quelle rare persone che tutti quanti noi credo che abbiamo. Io personalmente ho due amici, insomma, ai quali sono molto molto legato, con i quali difficilmente ho bisogno di completare un concetto, una frase, perché l'altro mi viene appresso, insomma, oppure mi anticipa. Tra l'altro mi stanno ascoltando, quindi saluto. Tra l'altro c'è un altro protagonista nel romanzo, eppure qui correggimi se sbaglio, che poi è Napoli. Sì, è Napoli su uno sfondo, perché in effetti il posto che ho scelto è poco distante, insomma, appartiene all'area dei Campi Flegrei. Per chi appunto non conoscesse questa zona, è una zona ovest della città che è stata, diciamo, nel passato, nell'antichità, è stata sede di grossi insediamenti, no? Pozzuoli, Baia, Bacoli, dove ancora poi sussistono una serie di resistenze importanti, nonostante il fatto che poi ci sia stato un massacro edilizio come quasi dappertutto in Italia. Però quelle zone, tra l'altro, in cui ho vissuto, conservano un qualcosa che ti piglia, ti prende, ti rimane, anche adesso, insomma. Assolutamente, questo è chiaro. Quindi il passato torna sempre a galla? Il passato torna sempre a galla, sì, il passato torna sempre a galla. Diciamo che il titolo è stata una cosa un po' sofferta di questo libro, quindi anche il sottotitolo, però insomma. Perché è stato un po' sofferto? È stata una scelta, insomma, condivisa proprio all'ultimo momento, insomma. Diciamo che sì, il passato torna a galla, certamente. Anche perché è passato la vita che ti può sembrare appresso. Lo diceva Giambattista Vico, insomma. Sì, è probabile. No, tra l'altro il titolo del libro è proprio quello di un western del 1967. Il titolo è stata una scelta della casa editrice che, insomma, ha scommesso su questa cosa in maniera, tra l'altro, inaspettata. Era una cosa che io ho mandato queste copie in giro e ho avuto queste due offerte di pubblicazione, quindi ho scelto questa casa editrice, la quale poi, insomma, è stata abbastanza lusinghiera pure nel sponsorizzare questa cosa, era Leone di Milano, Leone di Torino. Assolutamente, che cogliamo anche l'occasione di salutare, ringraziamo anche i grandi associati, i quali ci hanno permesso e per l'appunto ci hanno fatto. Certo, un saluto a Giuliana. In particolare, infatti, un saluto a Giuliana. Rosario, ancora una curiosità, immagino siano tanti, ma se tu dovessi raccontarci di un autore o più autori di riferimento, chi ti verrebbe in mente? Beh, io sempre quel famoso critico dice è un libro che strizza l'occhio a Camilleri. La qualcosa per un momento mi ha messo in crisi, poi diciamo l'ha fatto scattare una specie di, come dire, di risentimento, per cui mi sono chiesto perché poi il commissario Montalbano dovesse possedere il monopolio di tutti i terrazzini con vista sul mare, tenendo conto che ci sono 8.000 chilometri, perché io ne avevo uno dal quale vedevo Capri, tra l'altro, insomma. Quindi detto questo, gli autori di riferimento, beh, insomma, quelli classici, poi ci stanno anche quelli un po' più recenti, Dürrenmatt mi ha molto impressionato, per esempio, delle cose, insomma, lette di Dürrenmatt molto molto profonde, molto amare anche, insomma. Io avevo una domanda, avevo due domande da outsider che non c'entrano niente, però mi piace ricordare lo sfondo. Parlava dei Campi Flegrei, sbaglio o la Falanghina? È un vino nostro, sì. Ma nelle parti dei Campi Flegrei, fra l'altro, quello più buono. Sì, è un vino dei Campi Flegrei ed è un vino, è un vitigno che diciamo diventa sempre un po' più raro, perché la fanno un po' da tutte le parti, anche nell'interno, che fanno degli ottimi prodotti, ovviamente, questo non vuol dire niente alla qualità, però diciamo che il vitigno è proprio autoctono dei Campi Flegrei. Ma io lo trovo nel libro. Sì, c'è. Questo mi fa piacere. Tra l'altro, Giorgetto anticipava poi la mia ultima domanda, che è il ruolo della cucina nel romanzo. Non è che anticipavo, la introducevo. Il ruolo della cucina, mi è stato detto un amico, mi ha rimproverato, insomma, diciamo molto amichevolmente, ma insomma in maniera anche molto omatopeica, perché il proprio rumore era a dieta, quindi si mangia sempre in questo libro. Parlando di omatopeia, di omonimie, la omocognomia con il sindaco di New York, insomma, porta un qualche vantaggio o no? Non lo so, io quando ero studente all'università avevo un direttore che si chiamava come me, quindi andavo un po' in giro defilato, capito? Ma volevo cacciare 2000 studenti dall'università, quindi stavo un attimo su chi vivo. Mi preoccupava più quello, veramente, passato per un fatto proprio di distanza. Insomma. Rosario, il tempo in radio è veramente tiranno, ma ti siamo stati... Grazie ancora. Però. C'è un saluto, vorresti salutare qualcuno in chiusura, insomma, oppure un messaggio ai nostri amici ascoltatori? No, io mi piacerebbe, perché una chiave del libro è quella dell'ironia, quindi se magari ci sono persone che potessero, che volessero magari fare questo tentativo e magari apprezzassero uno anche un po' quell'umorismo che ho tentato di mettere in quelle pagine, questa sarebbe una cosa che mi farebbe molto molto piacere, il fatto di aver contribuito in qualche modo a far passare qualche ora tranquilla, insomma, di spesa delle persone. Poi certo lì ci sono gli italiani, figuriamoci. Una piacione a tutti. Rosario, ti ringraziamo, te l'avevo anticipato anche via email, il tuo umorismo napoletano effettivamente è passato veramente bene, quindi per me è stato davvero piacevole leggerti, e anche Daniele in regia ora questa sera inizierà a leggere il tuo romanzo, quindi nel mio piccolo... Mattina devo alzarsi presto, non gli conviene. Mi hanno rimproverato pure di questo, mi ha fatto fare la nottata. Beh, almeno il senso positivo, non è la nottata di... ovviamente. Rosario, noi ti salutiamo, e dovessi scrivere ancora, facci sapere, noi saremo ben lieti di comunicarlo. Assolutamente sì, assolutamente. Grazie tantissimo. A presto, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Buona serata. Grazie. Allora, eccoci qui, insomma, è una puntata ricchissima. Prima l'ambasciatore Marsili, Lucio Dalla, infine, insomma, avete potuto notare simpaticissimo Rosario, effettivamente anche un po' emozionato. La Rosario Rete dei Conti, edito da Leone Editore. E infine volevo ricordare, proprio nella Fiera del Libro, e questo è un omaggio alla nostra radio, che come sapete respira più anime, tra cui quella spagnola. Ovviamente ci sarà anche un padiglione spagnolo, di cui le attività sono promosse dall'Istituto Cervantes, e quindi il tutto segue quello che poi lo schema, diciamo, della Fiera del Libro, con l'inaugurazione domani sera alle ore 20. Vi ricordo però che il 2 marzo e il 5 marzo alle ore 13 c'è la Paella Omul, quindi Paella. Che sto leggendo col cellulare e quindi sono abbastanza... ho fatto, ormai il mio occhio è diventato piccolissimo. Poi ci sono invece il 3 marzo il fumetto belga, cioè proprio, insomma, un seminario dedicato al fumetto. E vi ricordo anche che ci sono vari ospiti, proprio l'ultima l'ultima sera che vi suggeriamo di non mancare, quindi insomma è veramente il palinsesto ricchissimo, quindi insomma non solo lingua italiana, anche lingua spagnola, sì, 20:59, assolutamente. Ringrazio Dani Amma in regia, grazie a tutti, ecco qui Giorgetto, miau. Perché mio? Beh, così il gattino che se ne va, sgattaio la via, perché ci stanno chiudendo. Partecipate, andate alla Fiera del Libro e mi raccomando, leggete, leggete, leggete. La lettura apre gli orizzonti. Buonasera da Mari D. Grazie, ciao, ciao a tutti.